Rap squalo, devi aver paura del mio rap. Balena. Sono come Moby Dick, dentro di me ci stanno 24 rich che scalpitano e vogliono fare cash. Dentro di me c'è un harem, dentro di me abracadabra, fibra non caga, così non cago neanch'io stessa stitichezza magica. Io non ho un cesso, una nave spaziale, è inutile che guardi nel bagno, non sono qui a cagare ma a monetizzare. Siamo nati col cash persino nel culo, ma nessuno ci lascerà più a digiuno. L'impegno è ripagato, cazzo, in questa base ci metto sopra una voce col cuore alato. Ripagato di ogni sacrificio, vorrei essere il beneficio del dubbio successo. Vorrei essere come quando mi guarda quello lì, dice c'è un riccone sul cesso, sì? Cazzo, il mio ufficio, lasciatemi cagare in pace che sto mettendo giù le misure del nuovo piano catastale. Quindi mi scappa da cagare, già per il cash che sale. La mia categoria da ufficio, rimango qui, tu batti il pugno, io batto fucio. Ecco perché nella officina di Confucio e di quella del jet set non c'è mai qualcuno che faccia meno di volere dei guai da sottoscritto. Il jet set qui lo scrivo col gessetto sopra il muro nero, tipo scrivere pace sul serio. Rimango qua siero della verità in ogni mia lirica, col cuore spacco blu di una nave che attracca in un porto siberiano. Siberia ibrida il mio cuore che fra un po' va in overdose di gelo, quindi datemi uno psicotone. Vorrei essere davvero un rapper, scusa se ci provo, non rimane altro che provarci in sto frastuono di tutta sta confusione gettata sulla musica, su regole di ciò che puoi e non puoi fare. Tu screcciaci, lasciali stare, libera la tua voce, lasciali andare per la loro strada. Non ci sono regole, questa base è come il Kama Sutra, un talamo stupendo in cui c'è il mio orgasmo dentro. Olè, olè, le Roy is back. Olè, olè, le Roy is back. Mentre suona un lento di Bach nella mia testa, rimane qui Laura come una giostra. Rimane qui filastrocca dopo filastrocca. Il mio rap scriverà la storia, la nuova storia di tutti sti rapper. Non li voglio vedere perdenti ma vincenti, se ancora non l'avete capito. Nei miei testi io ti spingo al massimo, ti spingo al massimo l'udito. Ti faccio percepire note alfa della mia metrica sfalsa. D'asfalto striscia sotto i piedi, rimango qui tipo un ballerino caviar lady. Rimango a danzare sopra ogni nota di questa base. Rap magistrale, rap magistrale, a danzare sopra questa base. Danzate sopra questa base. Base. Cioè, questo era un Proud of the Riches, ma spettacolo.